Buongiorno a tutte e tutti. Siamo qui con Carlo Formenti, direttore della collana di Visioni Eretiche, scrittore, intellettuale, lo possiamo dire, e ha tradotto, penso sia l'ultimo libro che hai tradotto, Sì, anche perché in generale traduco poco. Re d'Africa. Due in tutta la vita. Questione coloniale e politiche rivoluzionarie di Kevin Ochieng Okot, che ci offre una prospettiva particolare del marxismo africano attraverso letteratura e in qualche modo anche femminismo. Hai voluto metterci anche il femminismo di straforo praticamente. No, vabbè, il motivo per cui quando ho avuto per le mani questo libro nell'edizione inglese, mi sono offerto in olocausto per tradurlo. Dico in olocausto visto che alcuni di voi saranno consapevoli di quanto vengono pagate oggi le traduzioni. Tant'è vero che questo è il secondo libro che ho tradotto in vita mia, dopo La condition postmoderne di Lyotard per Feltrinelli nel lontano 1980, è che innanzitutto perché la nostra conoscenza del pensiero degli intellettuali africani è molto bassa qui in Italia. Sarà perché non abbiamo una tradizione coloniale, al contrario di Stati Uniti, Inghilterra e Francia. Sarà perché, come dire, c'è ultimamente, secondo me, un abbassamento radicale del livello medio di cultura delle sinistre, in generale di chi dovrebbe essere istituzionalmente attento ai movimenti dei popoli del sud del mondo. Comunque, sia per quanto riguarda l'Africa, paradossalmente anche relativamente per l'America Latina, che pure è stato molto importante nella formazione della cultura radicale di sinistra in questo paese, almeno fino agli anni 70-80. Dico agli anni 70-80 perché in realtà c'è una svolta all'interno del pensiero marxista e più generalmente radicale di sinistra, nei paesi occidentali e quindi anche in Italia, che in quel periodo chiude in buona sostanza con una lunga fase in cui invece l'attenzione nei confronti dei movimenti del terzo mondo era stata molto alta, legata soprattutto alla guerra del Vietnam, se vogliamo, ma non solo. Perché prevale un punto di vista che centralizza fortemente le prospettive della lotta di classe a livello internazionale e considera chiusa la parentesi della centralità invece delle lotte di liberazione nazionale, dicendo ormai fanno parte più in generale di tutto il panorama, il contesto della lotta di classe mondiale, non vanno più considerate un momento privilegiato da questo punto di vista. Vabbè, vengo a Re d'Africa. Kevin Ochieng Okot è un autore giovane, penso che non abbia più di 35 anni, probabilmente almeno a giudicare dalle foto, che ha fatto un grosso lavoro di ricostruzione delle modalità di penetrazione del marxismo fra gli intellettuali africani. Il titolo è in parte depistante, cioè nel senso che il riferimento alla pratica marxista all'interno dei movimenti di liberazione africane, cioè nel continente africano, è forse meno importante invece della ricostruzione del ruolo che gli intellettuali afroamericani hanno dato all'elaborazione marxista. Mi riferisco sia agli Stati Uniti e quindi a un personaggio fondativo del pensiero marxista nero come Dubois, sia al campo di linguistico inglese, cioè fra le due guerre, soprattutto in Inghilterra, c'è un raggruppamento di intellettuali in parte provenienti dalle Antille, in parte da altre situazioni come Eric Williams, James, George Padmore e molti altri, e lo stesso Dubois in qualche modo, che costruiscono come dire, un riferimento, un'interpretazione del marxismo tagliata sulle condizioni specifiche e sulle esigenze del movimento di liberazione dei popoli neri, sia a livello appunto americano, parlando soprattutto anche del Centro America e delle Antille, sia a livello africano. C'è il paradosso della riscoperta dell'Africa da parte della sinistra nera radicale negli Stati Uniti. Carmichael, Malcolm X, che viaggiano in Africa e tornano parlando addirittura della costruzione di una nazione africana negli Stati Uniti, Malcolm X esplicitamente, in parte anche Carmichael. C'è proprio questa svolta secca che l'incontro con le loro radici determina nei confronti di questi autori, che porta un contributo molto importante dal punto di vista anche della riflessione più generale. Fra l'altro si può dire che il panafricanismo come ideologia di unificazione di tutti i movimenti di liberazione africani nasca in America, nasca nelle Antille, e nasce lì perché c'è una vecchia tradizione di come dire, contaminazione fra diverse correnti della cultura africana, che risale ovviamente alla situazione dei modi di produzione schiavistici all'interno sia dell'America del Nord, sia delle Antille, anche dell'America del Sud, perché la mescolanza fra diverse etnie africane determina la costruzione di una cultura africana trasversale all'interno di queste situazioni della diaspora. Anche dal punto di vista, fra l'altro, etnico-religioso, pensiamo a un prodotto come la religione voodoo, e il punto più alto, probabilmente molto precoce da questo punto di vista. Io credo che un evento di cui noi sappiamo molto poco, relativamente poco, è per esempio la rivoluzione haitiana, che è una straordinaria esperienza di enorme modernità. Cioè la rivoluzione haitiana è in contemporanea con la rivoluzione francese, praticamente, sono gli ultimi anni del Settecento, i primi anni dell'Ottocento. Haiti in quel momento è una nazione che ha circa mezzo milione di schiavi neri a fronte di poche migliaia di padroni bianchi e di loro funzionari, diciamo, che gestiscono la colonia in una situazione di sfruttamento terrificante. Cioè la vita media era bassissima, in quelle condizioni le capacità riproduttive di uomini e donne vengono drasticamente abbassate, la mortalità infantile è enorme, quindi la gente muore relativamente giovane e viene continuamente sostituita da nuove ondate di schiavi africani importati dall'Africa, in particolare dall'area del Congo, che era la costa su cui si concentravano in quel momento i traffici negrieri. Esplode questa rivolta nel momento in cui arriva a San Domingo la notizia della rivoluzione francese. Come dire, le parole d'ordine di libertà, égalité, fraternité vengono prese alla lettera, come dire, dagli schiavi neri, e quindi cominciano inizialmente delle rivolte spontanee, che molto, molto dure, molto rabbiose, cioè una delle prime modalità con cui si manifesta questo tentativo di distruggere la schiavitù è l'incendio delle grandi piantagioni. Vengono bruciate le grandi piantagioni, vengono fatti fuori fisicamente i padroni delle stesse. Ovviamente c'è una forte repressione da questo punto di vista, e emerge questa figura straordinaria di Toussaint Louverture, che è questo leader africano che come dire, è un personaggio incredibile. Quando scoppia la rivolta era vecchio, secondo i criteri di allora, aveva poco più di 50 anni. Era un privilegiato perché non lavorava nelle piantagioni, nella proprietà in cui viveva, era un amministratore, fra virgolette, era uno dei pochi che masticava un po' di lingua francese, sapeva leggere, quindi era un intellettuale, fra virgolette, fra i neri, e che rivela delle capacità tattiche e strategiche straordinarie. Pronto, diventa un mito rapidamente, viene pensato come una specie di divinità vivente, immortale, perché affronta 20.000 scontri senza mai subire ferite gravi, viene, come dire, aveva un'energia straordinaria, era un grande cavallerizzo, per cui compare nella stessa giornata in punti diversi a 200 km di distanza, quindi gli si attribuisce il dono dell'ubiquità, praticamente, no? E quindi diventa questo mito che riesce sostanzialmente a sconfiggere nell'ordine prima le guarnigioni francesi, poi si allea con gli spagnoli realisti contro i repubblicani di destra francesi che vogliono mantenere la schiavitù in San Domingo, poi fa fuori gli stessi spagnoli e infine sconfigge un esercito di invasione inglese, per cui l'Inghilterra cerca di sfruttare la crisi di San Domingo per strappare San Domingo alla Francia, perché era la colonia più ricca in quel momento, e manda 40.000 uomini armati fino ai denti a San Domingo, che riescono a occupare le coste, però intanto cominciano presto a crepare di febbre gialla, per cui non sono abituati al clima, e poi vengono sconfitti militarmente, insomma, con tecniche di guerriglia che anticipavano quelle che poi saranno usate nelle guerre asimmetriche in Vietnam e in altre situazioni. Viene fregato alla fine il povero Toussaint Louverture, perché vuole trattare con Napoleone, che lo frega, e riesce a costringerlo ad andare in Francia, dove morirà imprigionato, e quindi sarà il suo luogotenente a portare alla fine la rivoluzione al compimento. L'ho fatta un po' lunga su questa storia perché è una storia paradigmatica dello spirito di una rivolta africana che intanto appunto ha degli elementi di forte contaminazione culturale fra diverse correnti e anche di capacità di assimilazione delle culture bianche in qualche modo, no? E i personaggi di cui si occupa Ocheng Okot in questo libro sono soprattutto quegli autori che sono partiti da queste straordinarie esperienze precoci delle lotte di liberazione e diventano tutti sostanzialmente militanti del Partito Comunista, che fosse il Partito Comunista inglese o il Partito Comunista africano, fra le due guerre mondiali. Sviluppano delle riflessioni approfondite sulla questione dell'imperialismo, seguono soprattutto il pensiero di Lenin dopo la rivoluzione d'ottobre sull'importanza delle lotte di liberazione nazionale dei popoli coloniali, e però arrivano tutti in tempi più o meno rapidi a rompere con i partiti comunisti, che accusano di sottovalutazione del peso delle lotte dei popoli del sud del mondo all'interno di un progetto di rivoluzione globale. Tenete conto che sono gli anni in cui finisce in sostanza la Terza Internazionale, si passa a una gestione molto più centrata sugli interessi dell'Unione Sovietica nello scontro geopolitico, e quindi l'attenzione scema progressivamente nei confronti di queste correnti. Qual è l'aspetto più interessante del libro? Perché gli interrogativi che si pone l'autore sono fondamentalmente: perché la spinta che il marxismo africano ha dato ai processi di rivoluzione successivi, cioè nel dopoguerra, negli anni 60, dopo Bandung, lo spirito di Bandung, la creazione del movimento dei non alleati, e quindi da Nkrumah a una serie di altri personaggi, ad Amilcare Cabral, a Sankara, tutti quelli che guidano il processo rivoluzionario e tentano immediatamente di dargli un indirizzo non semplicemente di autonomia nazionale, ma anche di trasformazione, sviluppo con un indirizzo di trasformazione verso il socialismo delle economie africane, perché sono falliti? Si chiede come e perché sono falliti, quali sono stati i limiti fondamentali di queste esperienze, a parte ovviamente la ferocia con cui vengono immediatamente repressi. Non c'è un leader rivoluzionario africano che dagli anni 60 alla metà dei 70 non sia stato assassinato dagli agenti dell'imperialismo occidentale. Lumumba, Cabral, Sankara, cioè l'elenco non finisce più. Una dozzina di leader africani viene ammazzata. Lì e in America, ovviamente, no? Malcolm X, Carmichael, Rodney, che era anche lui di origine centroamericana, ma aveva vissuto a lungo in Africa, aveva insegnato nelle università africane, eccetera. Vengono tutti fatti fuori e soprattutto questi paesi, nel momento in cui raggiungono l'indipendenza e hanno delle situazioni economiche naturalmente terrificanti, cadono nella trappola degli aiuti, fra virgolette, occidentali, nella trappola del debito. Cioè questi aiuti vengono dati, questi paesi vengono progressivamente trascinati sotto l'influenza del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Mondiale, in cambio vengono dati dell'accettazione del Washington Consensus, cioè delle politiche neoliberiste imposte dall'imperialismo occidentale. E quindi, se non vengono fatte fuori, le leadership delle borghesie nazionali che avevano avuto un ruolo dirigente in questi processi di liberazione vengono cooptate come rappresentanti degli interessi dell'imperialismo, sostanzialmente. Fanno fuori le sinistre all'interno dei movimenti di liberazione, agiscono anche come agenti di frammentazione etnico-culturale all'interno dei vari paesi. La situazione più tragica da questo punto di vista, che oggi è ancora sotto gli occhi di tutti, è quella congolese. Il Congo è sempre stato un territorio smembrato fra due grandi, fra l'influenza francese e l'influenza anglo-americana, e di volta in volta sono state sollevate rivolte etniche guidate, eteroguidate dall'esterno per mantenere il controllo sulle situazioni più interessanti. Cioè il Congo è una miniera incredibile che oggi diventa strategica. C'è un libro di un autore francese che si occupa soprattutto, fra l'altro, di economia digitale, apparentemente non c'entra nulla, no? Polemizza ferocemente col concetto di smaterializzazione dell'economia, dice no, attenzione, tutto quello che noi viviamo all'interno delle nuove tecnologie e delle loro estensioni cosiddette immateriali si basa su una quantità impressionante di metalli che devono essere estratti, cioè in uno smartphone ci sono 50 metalli diversi, le famose terre rare, cadmio, tantallio, tutti questi nomi di metalli particolari sono quasi tutti in Congo. C'è una concentrazione enorme in questo senso e quindi si stanno spartendo progressivamente queste risorse, attizzando i conflitti interni. Gli altri punti però che sono interessanti è come hanno fatto, in ogni caso, al di là della violenza, dell'intervento, dei condizionamenti economici dall'esterno, sono anche altre due questioni. Una questione di fondo è il progressivo spostamento delle culture cosiddette postcoloniali, quindi i Black Studies negli Stati Uniti, gli studi postcoloniali, decoloniali, eccetera, eccetera, in una direzione assolutamente culturalista, tra virgolette. Le contraddizioni fondamentali non vengono più viste nella loro centralità economica, sociale, politica, di classe, ma vengono spuntate sul piano identitario, fondamentalmente. Questo ha destrutturato l'elemento radicale del conflitto etnico, la blackness, no? Una versione postmoderna della negritudine, che in realtà diventa un elemento puramente identitario che viene giocato all'interno dei movimenti, delle culture, che la spinta nasce non a caso dalle grandi università angloamericane da questo punto di vista, no? Ancora una volta l'irradiazione avviene dalla diaspora nera nei paesi occidentali, ma mentre prima era stata una diaspora che aveva prodotto idee rivoluzionarie, adesso è una diaspora che produce idee conservatrici e appacificanti, diciamo. E l'ultimo punto su cui vado rapidamente a concludere, che è quello forse più interessante da un certo punto di vista, è la questione di il marxismo dà una risposta ai popoli africani e alle loro lotte, non è una ideologia eurocentrica fondamentalmente. La risposta dell'autore è non esattamente, esistono ovviamente delle componenti eurocentriche innegabili all'interno del marxismo, questo è un punto fra virgolette su cui sto lavorando a fondo, diciamo, sto ragionando, mi sono recentemente riletto il secondo e il terzo libro del Capitale e ragazzi, cioè non c'è niente da fare, Marx è eurocentrico, cioè ha un'idea, come dire, della trasformazione radicale che passa attraverso la riduzione del mondo intero alla composizione sociale e alle contraddizioni che ci sono in Occidente. Figurarsi che lui ragiona ancora sulla fase aurorale, che è quella inglese all'inizio, però dice da lì poi tutto il mondo diventerà così. E quindi, fra l'altro, la valorizzazione in termini positivi e sviluppisti, no, il ruolo civilizzatore del capitalismo, perché il capitalismo porta, come dire, all'avanzamento delle forze produttive, porta alle condizioni che permetteranno in una fase successiva di transitare facilmente a una forma sociale più avanzata. Ovviamente tutto questo visto dall'Africa, ma visto in generale anche dall'America Latina, in generale dal sud del mondo, non può essere particolarmente affascinante. Come si sono però comunque impadroniti di alcuni concetti del marxismo autori come Cabral, che è l'autore probabilmente di riferimento più forte del ragionamento che fa Ocott, la cosa interessante è che sono riusciti ad assumerlo, come dire, creativamente, cioè ad assumere per esempio un'idea di classe sociale che non è l'idea ortodossa e classica, no, che vede il mondo diviso in proletariato industriale e capitalisti, ma vede Linera, l'ex vicepresidente boliviano, ha scritto delle cose molto interessanti da questo punto di vista, riflettendo sul ruolo delle etnie Aymara nella rivoluzione boliviana, cioè dove lui dice il fatto che esistano delle forme sociali che sono delle forme che sarebbero state definite precapitalistiche, attenzione al pre, io preferisco usare non capitalistiche, perché nel momento in cui le chiami pre metti già un prefisso temporale che ti dice che è una cosa arretrata che dovrà invece poi svilupparsi nella direzione dello sviluppo e della civilizzazione eccetera. Queste, dice, nel momento in cui sono resilienti alla colonizzazione delle forme di vita capitalistiche, sono antagoniste, resistono, si oppongono, sviluppano progetti politici come quello che in America Latina, non solo in Bolivia, ma in Venezuela, in Ecuador, è quello del buon vivere, cioè di una visione radicale, alternativa di quale dovrebbe essere una modalità sociale positiva per tutti, no? Vanno assolutamente assimilate alla lotta di classe in senso molto ampio, non in senso riduttivo come gli operai dell'industria in un rapporto diretto di dialettica con il capitalismo produttivo, con il settore delle industriali produttive. Maria Teghi in Perù aveva già cominciato questo ragionamento. Maria Teghi è l'intellettuale latinoamericano che introduce Gramsci in America Latina. Cabral è la versione africana di questa applicazione di una visione ampia. Lui dice che nella fase di liberazione è la classe popolo. No? Poi in una fase successiva nascono conflitti e contraddizioni di classe anche all'interno, no? E in questa cosa si potrà risolvere soltanto, lui dice, con un suicidio delle piccole borghesie intellettuali che hanno guidato la fase iniziale della rivoluzione. è molto più complicato di così. Ma insomma è questo che lui chiama Red Africa, cioè una visione creativa e un'interpretazione non dogmatica e anti-europeista dell'ideologia della tradizione marxista. Questo è un po', direi, il nucleo fondamentale di questo libro e quello che lo rende interessante, oltre a farci conoscere il pensiero di tutti gli autori che citavo prima, in particolare l'ultimo di cui non ho parlato, che è Cedric Robinson, che è fra l'altro autore di un libro importantissimo, sempre dal punto di vista di una lettura critica del marxismo da parte della diaspora intellettuale afroamericana. Quindi è un libro stimolante, è un libro che porta a ragionare sui nostri conflitti e sulle nostre contraddizioni da fuori, con un'ottica che disassa, come dire, rispetto agli automatismi che sono invece di cui è così difficile liberarsi per noi, perché guardarsi da fuori è un esercizio estremamente complicato. Siamo, come dire, embedded dentro una tradizione, una cultura, delle categorie, dei dogmi che fanno parte della nostra identità sostanzialmente. Quindi cominciare a vedere come gli altri osservano criticamente, anche però appropriandosi di quello che è positivo all'interno di questa tradizione, secondo me è un esercizio estremamente utile. Ghiaccio io, che tanto faccio quello di mestiere. No, in realtà ammetto che io sono completamente, totalmente ignorante, digiuno, di qualsiasi cosa che siano le correnti di pensiero marxiste o post-marxiste che si sono sviluppate in Africa. Quindi non so se lei riesce a darci una panoramica che non abbia bisogno di 8 ore di tempo per essere fatta, però nel senso, dato che in 26 minuti, 29 minuti si è fatto tutto sul libro, perché no, magari... è la persona giusta, più che altro per un quadro generale, perché veramente non ho assolutamente idea, anzi ammetto ancora di più, anche quando si parla di Malcolm X, tutte le vicende della sinistra nera rivoluzionaria statunitense, in realtà rimango sempre colpito come anche loro, forse credo, si definissero marxisti, cosa che per me è assurdo, perché ovviamente gli Stati Uniti d'America dal 40 in avanti è tutto dottrina MacArthur, giusto, maccartismo, è tutto odio per i comunisti, è tutto poi partiti comunisti messi fuori legge, per cui impensabile credere che ci sia qualcuno addirittura poi razzializzato negli Stati Uniti d'America che in realtà poi si rivede in Marx, perché cioè, sembra non plus ultra del folle, però vabbè. Per quanto riguarda gli Stati Uniti in particolare c'è un discorso da fare, cioè la caratteristica della penetrazione del marxismo negli Stati Uniti, vabbè, c'è un bellissimo libro che è quello di Zinn sulla storia del popolo americano, che rifà tutto il percorso dall'Ottocento ai giorni nostri, ricostruendo chi è, come e perché ha introdotto il marxismo negli Stati Uniti. Quindi all'inizio sono soprattutto gli immigrati tedeschi, in parte meno quelli che arrivano dall'Italia o che hanno più un taglio invece legato alle tradizioni del movimento anarchico, ricordarsi Sacco e Vanzetti che vengono assassinati per l'appunto ed erano militanti anarchici, cioè c'è un grande mix, no? C'è un miscuglio fra correnti diverse del comunismo, del marxista, dell'anarchismo. È molto, quando si arriva nel Novecento c'è una influenza fortissima del movimento trotskista negli Stati Uniti. Tuttora i trotskisti sono una componente molto forte all'interno del movimento dei marxisti americani. La cosa interessante, rispetto a quello che dicevi tu, come si fa essendo razzializzati, fra l'altro, è che costantemente negli Stati Uniti il capitale è riuscito a usare la stratificazione delle migrazioni successive per metterle in conflitto reciproco. E questo era sistematico con differenziazioni salariali, con uso di, come dire, di distribuzione dell'organizzazione del lavoro con i lavori più pesanti e meno retribuiti a danno degli ultimi arrivati, diciamo. E quindi questo ha penalizzato fortemente, per esempio, la costruzione anche del movimento sindacale negli Stati Uniti, con alcune eccezioni, IWW, no? L'IWW, che erano il sindacato più radicale e più forte, sono sempre rimasti una minoranza però all'interno, mentre le grandi correnti sindacali hanno subito avuto una caratterizzazione corporativa e di controllo addirittura malavitoso in alcuni casi. Che poi arrivi anche a livello dei neri, questo è molto importante capire che c'è stato una doppia influenza negli Stati Uniti, da parte di questo tentativo di tornare alle radici africane, quindi tornare in Africa ha voluto dire avere rapporto con quei movimenti africani, soprattutto i movimenti di liberazione contro le colonie portoghesi, quindi Angola, Guinea, Mozambico, dove c'era una forte connotazione marxista già iniziale. Questi intellettuali che guidano queste lotte di liberazione avevano vissuto in Portogallo, si erano formati culturalmente e ideologicamente nel Partito Comunista Portoghese, quindi leggono e importano il marxismo in Africa, contaminano col marxismo anche le correnti americane, e poi c'è la tradizione antillana, la tradizione antillana che era più di tipo francese, più che a parte la Giamaica naturalmente, ma è molto forte la tradizione francese all'interno della Guadalupe, la storia di San Domingo della rivoluzione haitiana. Quindi sono presenti come delle radici marxiste molto, molto eterogenee e molto eretiche anche all'interno. Ma non è sorprendente quando... questo ha funzionato anche in modo, come dire, viceversa, nell'altra direzione. Se pensate che quando dopo la rivoluzione bolscevica viene indetto il convegno di Baku, che è il momento in cui l'Unione Sovietica inizia a tentare di armare e di indirizzare le lotte di liberazione contro l'imperialismo occidentale, anche perché in quel momento hanno il problema di... liberarsi dell'accerchiamento da parte di tutte le potenze occidentali dopo la fine della prima fase della guerra civile. Addirittura c'è una dichiarazione di Zinoviev, che presiedeva la conferenza di Baku, che si rivolge ai popoli medio orientali invitandoli a lanciare una jihad contro l'imperialismo occidentale. Quindi c'è anche da parte, come dire, di certe correnti del marxismo, c'è un uso, come dire, delle tradizioni culturali dei popoli del terzo mondo, dell'Islam e di altre culture, rovesciandole contro la cultura occidentale. E quindi questo viene anche trasferito all'interno della storia degli Stati Uniti, che sono questo strano crogiolo di correnti, di ideologie, eccetera. In Africa la questione è più complicata. Anche lì il discorso parte molto nella diaspora. Pensate a cosa ha voluto dire il concetto di negritudine che nasce in Francia da Aimé César, da Senghor, no? E che viene declinato in forme molto diverse, perché per esempio nel libro ci sono critiche feroci a Senghor, perché la negritudine usata, come dire, nella chiave che tendeva a dargli Senghor era sostanzialmente questa: il marxismo è interessante per quanto riguarda l'interpretazione della lotta di classe in Occidente, però per noi la cosa fondamentale è la riscoperta delle nostre tradizioni, delle nostre radici culturali e anche di un socialismo africano originario. moltissime di queste, di queste forme, ideologie che sono state elaborate nelle prime fasi delle lotte di liberazione si rifacevano alle forme comunitarie originarie pre-coloniali, ok? Quindi il comunitarismo, il fatto che comunque in moltissime situazioni non esisteva proprietà privata della terra, esisteva una proprietà comunale, fra virgolette, in forme tutto sommato abbastanza analoghe anche delle comunità contadine di certe zone dell'Occidente precapitalistiche, come l'Obshina in Russia, come le forme comunitarie tedesche originarie di cui parla Marx, fra l'altro, nelle sue opere. E quindi si vede il socialismo come qualche cosa che all'interno di una condizione che è una condizione precapitalistica o soltanto capitalistica in fase iniziale, potrebbe consentire di saltare, no? La fase di capitalistica e passare direttamente da una forma comunitaria o comunque altamente socializzata precapitalistica a una fase socialistica o addirittura comunistica. Non a caso sia in America Latina, ma anche in parte in certi momenti di riflessione di intellettuali africani, c'è un forte riferimento all'ultimo Marx cosiddetto, cioè al Marx che in realtà conosciamo per piccoli indizi, no? La famosa lettera a Vera Zasulic, o la critica, lo scambio critico con il recensore della edizione russa del primo libro del Capitale, in cui Marx sembra in qualche modo fare marcia indietro rispetto a certi entusiasmi nei confronti della comunque necessità di passare attraverso la fase capitalistica. Zasulic chiede a Marx, per esempio, di schierarsi nella polemica fra i populisti, fra i narodniki e i socialdemocratici, cioè i primi marxisti russi. Questi ultimi dicevano: non possiamo pensare a una rivoluzione socialista se non prima passando una fase di democrazia borghese, di sviluppo industriale, commerciale, eccetera, eccetera. Gli altri dicevano: no, noi abbiamo l'Obshina, che è la comunità contadina di base, che non ha la proprietà privata della terra, una proprietà comunale, ha una forma democratica di gestione della comunità, possiamo basarci su questa per saltare direttamente al socialismo senza passare sotto le forche caudine del capitalismo. Marx si pensa a lungo, è divertente perché nell'edizione che piano piano viene fuori degli scritti completi, che sono migliaia di pagine, molte delle quali sotto forma di appunti e abbozzi, è molto possibilista da questo punto di vista. Ci ragiona su, addirittura fa 4 o 5 versioni della lettera di risposta a Zasulic. Però in buona sostanza alla fine dice, in linea di principio, questo è possibile. A condizione, dice, che nel resto del mondo esistano già delle nazioni che sono avanzate, che sono passate a una forma socialistica, che possano aiutare questo processo evolutivo. Nella famosa lettera al recensore del primo volume del Capitale, tradotto in russo, tra l'altro Marx era incredibile, negli ultimi anni impara il russo in pochi anni per riuscire a dialogare con questo interlocutore, lui dice: lei mi ha fatto troppo onore e troppo disonore, non è questo il termine, al tempo stesso, perché descrive la mia opera come una tracciare le leggi generali di sviluppo dell'umanità come se fossero delle leggi di natura, in pratica. Quindi ci sono i vari passaggi, comunismo primitivo, schiavismo, servitù della gleba, borghesia industriale, e si arriva al socialismo. Io non ho mai inteso fare questo disegno generale, mi sono semplicemente limitato a descrivere le condizioni iniziali dello sviluppo del capitalismo in Inghilterra, quello che avevo sotto gli occhi quando scrivevo Il Capitale. Per il resto, dice, bisogna vedere, ci sono delle condizioni che possono essere molto diverse in contesti diversi, quindi questo va in effetti in contraddizione con quello che lui stesso ha scritto nelle sue opere fondamentali, come I tre libri del Capitale in Grondris. D'altro canto, un filosofo italiano ha giustamente detto che ci sono almeno tre Marx in conflitto fra di loro e che poi si può giocare uno contro l'altro, e come è stato fatto effettivamente da diverse correnti del marxismo. Questa visione dell'ultimo Marx è centrale nello sviluppo delle declinazioni marxiste dell'America Latina e in alcuni casi dell'Africa. Cabral, che abbiamo citato prima, parte da questa cosa, così come Linera e altri, Maria Teghi prima, e Dussel, che scrive un libro che è stato pubblicato nell'80 dal Manifesto, L'ultimo Marx, appunto, hanno avuto una grande attenzione. Adesso L'ultimo Marx addirittura è stato sfruttato da un marxista giapponese, Saito, mi pare che si chiami, per scoprire un Marx ecologista, fra virgolette, ante litteram, partendo, secondo me, con una certa forzatura, per usare un eufemismo, per esempio, da tutta la parte che lui dedica all'analisi della proprietà fondiaria e dei disastri che vengono creati dall'appropriazione privata della terra, e poi da questa presenza della proprietà fondiaria come strumento di aggravamento delle condizioni di devastazione dell'ambiente prodotte dal capitalismo industriale. Sono un po', non solo forzate, ma un po' anacronistiche, perché diciamo che attribuire a Marx la capacità di prevedere quelle che sarebbero state le contraddizioni dell'economia verde oggi mi sembra francamente molto forzato. Comunque, per dire, è un po' difficile ricostruire tutte le correnti come chiedevi. Ci sono tendenze molto diverse. Un personaggio interessantissimo è Mesesar, per esempio, che è l'altro guru della negritudine, che però la leggeva in una dimensione totalmente diversa rispetto a Senghor. Fra l'altro, il discorso sulla negritudine, che in Italia è pubblicato da Ombre Rosse, mi pare, una piccola casa editrice di Verona, c'è un passaggio terrificante, terrificante nel senso positivo, in cui lui dice, rispetto al discorso che sentiamo, ai discorsi che sentiamo oggi, nazismo uguale comunismo, oppure cose di questo genere, in cui lui dice che la cosa che veramente i liberal democratici rimproverano a Hitler e al Terzo Reich non sono i delitti, i crimini contro l'umanità, sono il fatto di aver commesso questi crimini contro dei bianchi, cioè di avere applicato le stesse pratiche genocidarie che l'imperialismo inglese e l'imperialismo francese hanno usato contro gli indiani dell'India, gli africani e gli altri popoli coloniali, contro dei bianchi, cioè di avere sterminato con gli stessi criteri. D'altro canto, Hitler in Mein Kampf fa un'esaltazione dei metodi usati dagli Stati Uniti per eliminare, sterminare gli amerindi completamente. Dice, prenderemo esempio, e gli inglesi lo stesso, dobbiamo prendere esempio dagli altri popoli occidentali e dalla loro decisione, no? D'altro canto, la Germania non aveva, dopo aver perso la prima guerra mondiale, l'unica speranza che aveva di espandersi era verso l'est Europa, e pensava di desertificare l'est Europa e sostituirla con i coloni tedeschi. Quindi aveva una visione puramente coloniale della guerra. Adesso ho fatto un po' di deviazione rispetto alla tua domanda. No, perché in realtà, poi dopo, accendendo il cervello, mi viene in mente che in realtà la versione più famosa è il socialismo africano, anzi il socialismo arabo, quindi Gheddafi, in qualche caso anche questa addirittura Esatto, Nasser, ma anche, oddio santo, non mi ricordo, il dittatore dell'Iraq, quello che poi è stato ucciso dalla gloriosa guerra contro Saddam Hussein, tutte queste figure gloriose del socialismo arabo, che è anche africano, cioè adesso magari parliamo di Africa, parliamo più di Africa nera, proprio subsahariana, però... C'è, no, c'è è molto un autore molto interessante che non so se riusciremo a tradurre, non credo però, perché non abbiamo più saputo niente, è questo Said Bouamama, che è un franco-algerino, che riflette molto sulla questione del rapporto fra Islam e socialismo, tra l'altro. Perché normalmente quando si parla appunto di movimenti africani si pensa sempre al subsahariano, cioè i neri sostanzialmente, mentre il Nord Africa viene visto come un qualche cosa a sé, che in parte è vero, cioè no, non tanto e non solo dal punto di vista etnico-linguistico, ma anche dal punto di vista storico, cioè il fatto che tutta la fascia del sud mediterraneo sia stata islamizzata in qualche modo ha delle conseguenze notevoli sia dal punto di vista storico, delle tradizioni, della cultura, ma anche dal punto di vista della composizione sociale, dell'economia e quant'altro. Dopodiché è pur vero che anche all'interno di questo tipo di tradizione è stata usata una componente che è presente all'interno dell'Islam. Perché chi studia il Corano sa che all'interno del Corano ci sono forti elementi, fra virgolette, comunitaristi, no? Che c'è una condanna dell'eccesso di ricchezza, dello sfruttamento. Fra l'altro interessante, noi abbiamo parlato della guerra di liberazione degli schiavi di Haiti, molti dicono attenzione che gli schiavi erano stati fatti per primi dagli arabi, no? Che è vero, no? Inizia lo schiavismo, inizia soprattutto come schiavismo fatto dagli arabi a danno dell'Africa nera. Però la condizione degli schiavi islamici era molto diversa dalla condizione degli schiavi massacrati all'interno delle piantagioni nelle Antille e nell'America Latina. Innanzitutto erano usati quasi esclusivamente come schiavi domestici, no? Quindi come servitù domestica fondamentalmente, e non messi ad un lavoro sistematico di massa come è avvenuto in Occidente. Inoltre era presente, come si applicavano delle indicazioni legali, cioè era vietato uccidere uno schiavo, era considerato un essere umano, non era considerato un oggetto come viene considerato dai piantatori della Carolina, della Virginia o di Haiti e Salvador. No? Quindi c'è una differenza che è una differenza specifica delle radici culturali e religiose della tradizione islamica, che può in qualche modo appropriarsi, sia pure in una dimensione che per noi è abbastanza difficile da capire, di aspetti anche della tradizione socialista. Dopodiché ricordiamoci che quando all'interno di questi paesi, Egitto, Iraq, Siria e quant'altro, si sono sviluppate delle forze che rivendicavano in modo invece molto più deciso una prospettiva di tipo socialcomunista, sono stati sterminati, cioè sono stati liquidati più o meno fisicamente, quasi dappertutto. Quindi anche qui il panorama è complicato. Come dicono quelli di Tlon, è molto complesso, giusto Elena? È complesso. Salutiamo gli amici di Tlon, ci auguriamo che scrivano altri libri o li facciano scrivere. Non potete editare un libro in intelligenza artificiale, no? Fatelo anche voi, come scherzo. Sulla bravura di un libro di intelligenza artificiale sulla bravura di Tlon. Vabbè, perfetto. Prego. Scusate, queste battute divertentissime. Chi vuole? Se no, nel senso. Ma no, volevo chiedere una cosa. Il microfono, no, se no ti registriamo. No, come tu sai, Carlo, noi come casa editrice ci occupiamo molto anche della questione blackness, negritudine, che si inserisce, c'è cioè una collana dedicata, diciamo, a questi temi, e che si inserisce nel più complessivo interesse verso tutte le questioni che passano sotto il nome poi delle battaglie civili, che riguardano anche la questione di genere e via dicendo. E tra l'altro è la collana di maggiore successo della nostra casa editrice. E forse rispetto a quello che dicevi tu prima, cioè della capacità di noi occidentali di guardare solamente il nostro ombelico, anche quando si tratta di fare, come dire, delle analisi più complessive sullo stato del pianeta, diciamo così, l'attività di questa area intellettuale che attira così tanto l'interesse dei giovani potrebbe essere utile anche proprio per sollevare lo sguardo un po' dal proprio ombelico. Oppure, lettura invece più pessimista, si tratta di un altro strumento, che è una domanda che noi ci poniamo, non noi come casa editrice, ma in generale anche come militanti, come attivisti, come semplici studiosi, eccetera. Si tratta di uno dei tanti modi che il sistema della comunicazione dominato e dominante qui in Occidente ha per spostare l'attenzione dalle questioni più strutturali, politiche e di trasformazione sociale e rivoluzionaria, da un piano appunto politico ad uno che è invece un piano prevalentemente di tipo culturale e identitario. Non lo so, questa era la domanda che mi veniva da fare alla luce di questo libro, che si inserisce bene nella tua collana, ma forse non altrettanto bene in altre nostre collane. Sì, mi viene in mente quando sono stato in Ecuador l'estate del 2013 a fare una ricerca sul socialismo di Rafael Correa. Sono arrivato poco prima che venisse liquidato, fondamentalmente, perché quasi subito dopo non poteva più ripresentarsi e vinse chi avrebbe dovuto succedergli con questo nome assai equivoco, perché si chiama tuttora Lenin Moreno. Evidentemente proveniva da una famiglia che aveva una tradizione bolscevica, fra virgolette, l'hanno chiamato Lenin, ma ha subito svelato la sua faccia rialleandosi con gli Stati Uniti e liquidando tutti i progressi che erano stati ottenuti con la rivoluzione ciudadana, come chiamavano la rivoluzione ecuadoriana. Ebbi modo di intervistare un leader dei movimenti indiani, no? Dei campesindios, che hanno avuto un ruolo molto importante nella rivoluzione ecuadoriana, meno che in quella boliviana, per un motivo molto semplice: la popolazione boliviana è al 70% di origine india, quindi alla fine decidono, per grazia di Dio, meno male. La popolazione ecuadoriana ha il 30%, quindi hanno un peso forte, ma non decisivo. E loro sono sempre stati in un conflitto molto duro, anche nei confronti di Correa, perché la posizione di Correa era una posizione che potrei definire borghese progressista, diciamo così. A me non piacciono le etichette, però diciamo che voleva autonomizzare il paese dagli Stati Uniti, voleva portarlo fuori da una situazione di arretratezza economica, sociale e culturale, però nel senso, fra virgolette, sviluppista, cioè acceleriamo moltissimo l'industrializzazione del paese, utilizziamo il fatto di disporre di ampie risorse petrolifere per finanziare, per che fungano da volano per questa trasformazione radicale. Le comunità indie si opponevano a questa politica per un motivo banale, perché sapevano che l'accentuazione dello sfruttamento di risorse naturali li fregava, cioè voleva dire essere espropriati di ampie aree territoriali e essere in prospettiva ridotti da comunità che volevano mantenere le loro condizioni originarie a lavoratori salariati o disoccupati o peggio. Allora andai a chiacchierare con questo personaggio che il governo considerava ambiguo, li accusava di essere di destra, a volte li accusava di essere estremisti di sinistra, semplicemente perché non riusciva a inquadrarli secondo le categorie con cui siamo abituati appunto a inquadrarli noi, ma anche chi all'interno di altri paesi si rifà alla tradizione culturale delle categorie politiche occidentali. E a un certo punto gli chiesi, fra le altre cose, che cosa pensava della politica verde, dell'ecologismo occidentale, no? E perché il discorso che fanno loro, che è quello del buon vivir, no? Rispetto al rapporto con la terra, loro quando gli chiedi ma perché voi pensate che non sia possibile la proprietà della terra, dice non è possibile Pachamama, madre terra, è la terra che possiede noi, non siamo noi che possediamo la terra, quindi c'è questo rapporto rovesciato fra virgolette. Quindi questo era chiarissimo. Ma dico, allora voi sarete molto contenti di sentire tutti questi discorsi su Gaia, allora lui dice, guarda, dice, noi siamo contenti che queste cose possano essere utili per noi, per sfruttarle ideologicamente, ma noi non c'entriamo un cazzo con nessuna cultura occidentale, noi abbiamo la nostra cultura e vogliamo essere lasciati in pace, fra virgolette, e restare dentro la nostra cultura. Quindi, alla domanda che mi hai fatto tu, non do una risposta secca, dico che l'importazione di una serie di categorie e di culture che fanno parte del sud del mondo, o anche in parte che ce le siamo reinventate noi soprattutto, ha un ruolo ambiguo. Se resta dentro una dimensione puramente identitaria di politically correctness, secondo me alla fine ci fotte, fra virgolette, perché diminuisce l'impatto possibile in termini di alternativa radicale nei confronti del modo di produzione capitalistico. Da un altro punto di vista, invece, può essere un acceleratore, perché introduce nuovi livelli di contraddizione oltre a quelli già esistenti. Il problema è che non si arrivi, perché in un modo o nell'altro il rischio è sempre quello di arrivare a identificare un livello fondamentale e gli altri non contano un cazzo. Cioè, per me il livello fondamentale è questo, per me il livello fondamentale è quest'altro, e da questo punto di vista arrivi sempre a spezzare l'unità possibile di un soggetto ampio, articolato, che si opponga globalmente al dominio del capitale. È un compito difficilissimo mettere insieme le varie identità, le varie e questo ci porta poi a discutere, ma qui andiamo molto oltre, no, questa cosa. Uno dei punti su cui appunto ci racconta questo libro, c'è stato molto conflitto all'interno di tutti i movimenti africani, è la questione della forma Stato e la forma partito. Perché per alcuni, per esempio per Cabral, non si poteva esimere dall'avere una struttura di tipo partitico per unificare le varie identità e i vari soggetti presenti all'interno della lotta di liberazione nazionale, salvo poi riaprire il discorso in una fase successiva. Per altri invece la critica è venuta dopo, avete visto che adottando la forma dello Stato-Nazione così come esiste in Occidente e adottando la forma del partito centralizzato così come esiste in Occidente, ci siamo fregati, cioè abbiamo costruito la possibilità di una stratificazione, di una burocrazia e di un comando centrale che è diventato un soggetto al servizio delle multinazionali, dell'imperialismo, eccetera, eccetera. Questo discorso, lui, secondo me, è abbastanza bravo, perché riesce in qualche modo a farci capire che in realtà il problema non è questo. Cioè, il passaggio attraverso l'autonomia e quindi la costruzione dello Stato-Nazione era un passaggio ineludibile per la conquista dell'autonomia. Il problema era il dopo. Il dopo, come dire, del dopo son piene le fosse, come dice il mio grande maestro e riferimento, che è Gheorghi Lukács, che giustamente diceva, anche analizzando criticamente, riprendendo criticamente il patrimonio del marxiano, è che il marxismo non è una scienza, che ne dica il Tusser o tutti gli altri lettori strutturalisti del marxismo. L'unica scienza di Marx era la storia, e la storia non risponde a leggi immanenti, non ha leggi immanenti, può essere compresa solo a posteriori, Cioè è solo analizzando lo sviluppo concreto dei fatti storici puoi ricostruire quali sono state le cause determinanti che hanno portato quell'esito piuttosto che a un altro esito. Quindi non c'è mai una necessità, fra virgolette. C'è sempre una possibilità che dobbiamo analizzare. Cioè lui usa il termine se, puntini, puntini, allora. Cioè date certe condizioni, il risultato presumibilmente è questo. Non dato questa legge, il risultato sarà necessariamente questo. Quindi questa cosa qui, come dire, ci deve far sempre essere prudenti nella descrizione, fra virgolette, del che fare, che è la cosa più difficile. L'analisi siamo bravi tutti, più o meno, ma quando si tratta di passare dall'analisi a una strategia politica cominciano i cazzi acidi, insomma.